30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Oltre 1 miliardo di persone soffre la fame, 1/6 della popolazione non dispone di una quantità di cibo sufficiente e ancora nell'ultimo anno 100 milioni di persone in più hanno perso la possibilità di nutrirsi regolarmente. Jacques Diouf, direttore generale della FAO, dice: la fame e la povertà pongono seriamente a rischio la sicurezza e la pace mondiale. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento di 30 minuti in cronaca, lo spazio del sabato che si prende qualche minuto in più per ragionare su una delle molte notizie che viaggiano velocissime lungo il nostro orizzonte informativo. The situation goes beyond the traditional humanitarian dimensions. La voce che sentite è quella di Jacques Diouf, lo sentite in sottofondo. Jacques Diouf è un politico e diplomatico senegalese, 71 anni tra pochi giorni, da 15 è il direttore generale della FAO. Il suo allarme è effettivamente impressionante, parla di 1 miliardo di persone che, come possiamo dire, insomma, non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Sono oltre 640 milioni in Asia, ma ben il 32% del totale nell'Africa subsahariana. E poi, sullo sfondo, lo spettro che si affaccia anche nei paesi sviluppati. Soprattutto un aumento della fame che sembra veramente fare a pugni con l'agenda del World Food Summit, che entro il 2015 puntava a ridurre sotto il 500 milioni il numero delle persone sottoalimentate. Insomma, un mondo che ha fame, che non sembra capace di provvedere a se stesso, nonostante la sua storia, la competenza, la tecnologia, nonostante tutta questa scienza. Ne parliamo questa sera con Antonio Pascale, giornalista e scrittore, nato a Caserta, perito agrario, laureato in scienze agrarie, funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Comunitarie. Nel suo ultimo lavoro, Scienza e Sentimento, pubblicato per Einaudi, si occupa anche di pomodori e di vacche da latte, ma soprattutto direi di come le semplificazioni non ci aiutino a capire questo mondo sempre più complesso. Buonasera Pascale, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Insomma, l'allarme della FAO nasce da una condizione economica anche molto particolare. Un dato direi che è sufficiente per inquadrare questo aspetto. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, i prezzi delle derrate sono saliti di oltre il 75% tra gli inizi del 2006 e luglio del 2008. Una cosa dunque sono i prezzi, un'altra cosa, è quella invece di cui ci vogliamo occupare, è la nostra capacità di produrre un certo bene, in questo caso il bene è il cibo. Si è innescata intanto una corsa al prodotto agricolo che non è più solamente destinato al piatto. Un dato ancora una volta ci aiuta. Il dato è del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense. Circa 1/3 del raccolto 2009 statunitense di grano sarà convertito in etanolo. Insomma, Pascale, un dato e una situazione di grande cambiamento che spaventa. Non di grano, di mais e di soia, se non sbaglio, no? Verrà convertito, sì, una parte di questa produzione verrà convertita, anche se poi il Dipartimento americano nel rapporto annuale vede anche una nota ottimista, cioè crede che i prezzi riprenderanno a salire, dunque sarà di nuovo conveniente produrre mais e soia, che in questo momento non danno convenienza. Mais e soia entrano comunque all'interno di un sistema in cui c'è competizione per assicurarsi le materie prime. Assolutamente sì, e anche per questo sarà spostata gran parte della produzione verso il bioetanolo, perché appunto la legge americana lo consente, dà delle sovvenzioni a chi sposta la produzione in campo di bioetanolo. E quindi questo dà la possibilità un po' di gestire, ma comunque la situazione è abbastanza seria. In Italia lo è ancora di più, soprattutto per il grano, per esempio, che non conviene produrlo. Perché costa tanto, guardi, costa davvero tanto. E noi abbiamo questo primato della pasta, eppure produciamo con costi altissimi, sia per quanto riguarda l'uso dei concimi, sia per quanto riguarda i costi di altre forme di produzione. Sapere produrre una cosa, renderlo accessibile è un altro discorso. Io vorrei, prima di proseguire, sentire ancora un momento di UF, perché completa il ragionamento con un elemento importante. I should note in this regard that although tempered by the recent food, fuel and financial crisis, several countries have realized remarkable progress toward the achievement. Ecco, questo è un passaggio importante. Diouf dice, nonostante la grande crisi economica, devo rimarcare come molti paesi abbiano compiuto significativi passi in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'ONU. Dice anche in Africa, in Asia, in America Latina. E poi conclude e dice, sappiamo ciò che dobbiamo fare da un punto di vista tecnico. Insomma, Pascale, da un lato un orizzonte quasi apocalittico nei titoli, poi nella stessa dichiarazione un'affermazione di tenore molto diverso. Dove siamo secondo lei? Partiamo da un insieme, vediamo se riusciamo ad ragionarci su. Quando i nostri avi cominciarono a mettere su le prime comunità agricole in Mesopotamia, in Cina e in America Centrale, la quantità di cereali che insomma, si riuscivano a produrre attestava intorno ai 500 quintali. A ettaro, poi in età romana fu portato a una tonnellata, in età medievale sempre una tonnellata era, in prima guerra mondiale una tonnellata, dopo la prima guerra mondiale con la scoperta di concimi antiparassitari e miglioramento genetico soprattutto, questa quantità è cominciato a salire, adesso ci attestiamo su per giù intorno alle 5 tonnellate ettaro. D'accordo? Questo è il dato che riguarda tutto l'Occidente, diciamo. Faccio una media molto, molto imprecisa, però insomma, tanto per capire. Certo, cioè dallo stesso ettaro di terra si moltiplica per 10 volte. 5 tonnellate di grano, cioè adesso metto in mezzo mais e cereali, cioè, diciamo, i cereali, certo. Diciamo così, 5 tonnellate ettaro. Ora, quando per esempio per fronteggiare la crisi parliamo di decrescita, per esempio, ecco, dobbiamo capire di quanto vogliamo decrescere, cioè qual è questa percentuale che ci dà la salvezza e ci mette in rapporto col passato oppure con la natura? Ecco, questo non ce lo dicono mai, perché ecco. Dice vabbè, va bene 4,8, 4,5, 4,2, di quanto vogliamo decrescere? Vogliamo tornare a 1 come stanno ancora alcuni stati africani? Ecco, quindi dobbiamo un po' capire che siamo arrivati a questo livello di produzione perché la tecnologia ci ha dato una mano. Mi scusi Pascale, la tecnologia chiaramente è un po' l'elemento centrale di questi nostri tempi. Centrale. L'ONU sempre prevede che la popolazione mondiale superi i 9 miliardi entro il 2050 e si calcola che la popolazione avrà bisogno del 100% di cibo in più. Da un'altra parte la FAO spiega che la superficie dei terreni per coltivare o allevare crescerà al massimo del 20%. No, guarda, proprio al massimo, un dato molto ottimista della FAO, in realtà penso che deve essere stabile, perché poi bisogna considerare la terra che verrà per l'urbanizzazione, insomma. Certo, non tutto va all'agricoltura. Abbiamo poca terra e dobbiamo usarla benissimo, benissimo. Quindi questo significa che dobbiamo sforzarci tutti per capire in che modo produrre di più e in maniera più sostenibile, perché siamo lì. Ecco, la rivoluzione verde ha fatto dei grandi progressi e ha permesso a tutti noi di abbassare il nostro deficit calorico. Mangiamo tutti quanti bene, su via, lo sappiamo bene che mangiamo bene, siamo più alti, più belli, più in salute. Questo è dovuto alla rivoluzione verde, ma ha portato anche dei costi, inutile negarcelo. L'uso abbondante di chimica è uno di questi costi, per esempio. Quindi oggi si pone il problema di come fare a sfruttare i benefici della rivoluzione verde senza decrescere come alcuni nostri teorici amano dire e però abbassare anche i costi. E secondo molti che si occupano di agroalimentare, la tecnologia è veramente un'arma che dobbiamo usare, uno strumento che ci permette di mantenere benefici e di abbassare i costi. Ecco, l'Italia coltiva una fortissima diffidenza nei confronti della tecnologia. Nel settore alimentare poi si arriva a costruire un vero e proprio bipolarismo tra prodotto naturale contro artificiale, tra chimico e biologico, che nel suo libro lei sintetizza in una vera e propria lotta simbolica tra il bene e il male. Poi parleremo del biotech e delle tecnologie, ma vorrei che mi chiarisse questo punto. Ma no, naturale non esiste, insomma, dopo Darwin è stato chiarito definitivamente questo concetto, cioè la natura è soltanto un prodotto culturale, nasce da un rapporto, io cambio l'ambiente e l'ambiente cambia me, il risultato è appunto la natura, ecco, però è un risultato sempre sfuggevole e sempre in continua mutazione, quindi la contrapposizione tra un cibo naturale e un artificiale fa ridere, cioè insomma nessuno scienziato, nessuna persona con un po' di competenza scientifica la prenderebbe sul serio. Noi siamo abituati a chiamare naturale dei cibi che appaiono sul mercato e dopo 6 anni spariscono, ne vengono sostituiti da altri, diciamo la nostra abitudine che ci fa considerare naturale, ma non c'è poco di naturale. Il pomodoro che nasceva naturalmente era piccolissimo come neanche una ciliegia. Lei parla del pomodoro di Pachino, lo cita un po' tra queste idee che ci legano al territorio, alla storia, e ci racconta una storia un po' diversa. Perché è nato da un incrocio tra una varietà americana e un'esderiana e poi è approdato sulle nostre penisole e sulla costa orientale della Sicilia, e da là si crede che sia un prodotto appunto sempre esistito in Sicilia, ma no, esiste da 60 anni neanche, no? Ma non solo, ma a volte, siccome il pomodoro è frutto di un rapporto complesso con l'ambiente, ha bisogno continuamente di essere aggiustato, come dire, no? Di essere continuamente migliorato. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, riprendiamo dunque a parlare di produzione alimentare, del mondo in cui viviamo, con Antonio Pascale, che ci ha lasciato dicendo sostanzialmente il naturale in agricoltura non esiste. Ecco, non è che questo in qualche modo apra la via al liberi tutti, cioè interveniamo e evochiamo così i fantasmi che sono stati tante volte citati sui cibi Frankenstein e così via? No, ma in realtà non sono cibi di Frankenstein, sono cibi più controllati e più sicuri dal punto di vista alimentare, ma questo poi non è che lo dico io, non vi dovete fidare di me, ma vi dovete fidare di autorevoli fonti scientifiche. Il metodo scientifico è un metodo magari imperfetto, però che ci garantisce alcune cose, è una di queste cose che le nuove scoperte vengono continuamente vagliate dagli scienziati stessi, cioè se io dico per esempio ho visto l'unicorno, da scrittore lo posso anche dire, nessuno mi chiede di dimostrarlo, invento una favola e lo vedo, e se invece dovessi passare un esame scientifico io devo dimostrarlo che ho visto l'unicorno, cioè devo mettere i miei dati a disposizione di gruppi di scienziati i quali entreranno nel merito di questi dati e mi diranno cosa funziona e cosa non funziona. Ecco, nel suo libro lei cita proprio uno di questi casi abbastanza clamorosi in cui un prodotto alimentare viene, diciamo, sbandierato come campione delle campagne di Greenpeace per poi cambiare radicalmente percorso. Greenpeace è veramente specialista in questo, perché generalmente ogni rapporto preliminare viene preso da Greenpeace senza aspettare la prova, cioè si fonda su delle ipotesi, le campagne di Greenpeace, e poi nel tempo queste ipotesi sono state sempre tutte cancellate e Greenpeace non ha mai chiesto scusa a nessuno. Ecco, perché attecchiscono così bene nell'opinione pubblica, così come la paura almeno apparente, diciamo, dell'inganno da parte del grande sistema della produzione alimentare? Guardi, un po' perché la tecnologia richiedono competenza. Ora, per esempio, io sono competente più o meno in questo settore, quindi mi accolgo dei trucchi, ma in tanti altri settori non sono affatto competente, quindi potrei anch'io sviluppare una suggestione negativa rispetto alla nuova tecnologia, ma soltanto perché non la conosco. Quindi il problema è un po' questo, cercare delle fonti autorevoli e fidarsi di loro, ecco. Però in Italia tutto questo è molto difficile, perché nelle trasmissioni, quelle ad effetto, diciamo così, passano dei personaggi che non sanno nulla di quell'argomento e che fondano le loro teorie usando delle immagini fortemente evocative. Ne dico soltanto una, è quella della fragola pesce, no? Si continua a parlare di questi benedetti OGM come un prodotto mostruoso che condurrebbe alla produzione di un cibo mostruoso, appunto, metà fragola e metà pesce, no? Tutto questo semplicemente perché nel lontano 85 cercarono di duplicare delle proteine antigelo comunemente presenti in natura e di trasferirle non nella fragola ma nel pomodoro e nel tabacco affinché queste piante resistessero al gelo. I prodotti non sono mai stati messi sul mercato perché poi non funzionarono, quindi anche questo, no? È una dimostrazione di come sia difficile poi far funzionare un nuovo prodotto, non è mica facile. Lei confuta una serie anche di affermazioni, una delle quali è l'idea che l'agricoltura biologica riduca i danni all'ambiente. Ma cioè, non è proprio, insomma, sono dei problemi un po' complessi, cioè io sono contro l'idea del biologico come parola magica che risolva tutto. Il biologico non ha nessun, è anche un controsenso, è uno simbolo, non esiste una cosa biologica, no? Esiste una produzione, un metodo di produzione che cerca di non usare alcuni antiperassitari di sintesi, cioè prodotti in laboratorio, e di usarne altri che sono ritenuti naturali. Poi vabbè, se andiamo a vedere caso per caso ci accorgiamo ci sono delle cose che non tornano, per esempio la lotta alla cocciniglia nella produzione biologica si fa usando l'olio bianco. Ora io mi rendo conto che l'olio bianco rimanda un immaginario bello, no? Le beauty farm, l'olio bianco, e no, sono dei derivati del petrolio l'olio bianco, e tra l'altro anche nella lotta convenzionale alla cocciniglia si usa l'olio bianco, cioè in alcuni tipi di lotte i prodotti biologici e quelli convenzionali si assomigliano moltissimo, oppure nella lotta contro le criptogame sono dei funghi e si usa nella cultura biologica il rame. Il rame però è un prodotto molto pesante che può, usato in dose eccessive, fa 6 danni al terreno. E per quale motivo allora continua a usare il rame e non altri prodotti di sintesi che sono meno invasivi? Ecco, in zootecnia per esempio, Pascale, la nostra immagine, quindi di non esperti, di non informati sicuramente, a fondo ci fa apprezzare l'immagine di una vacca che pascola in un alpeggio. Cosa c'è di male in questa immagine? No, bella, molto bella, soltanto appunto che se dovessimo soddisfare la nostra produzione di latte, che è abbastanza alta, soltanto usando le vacche nell'alpeggio non ce la potremmo fare. E quindi dobbiamo creare un sistema industriale chiamato così intensivo, che dà e dobbiamo cercare di fare due cose: e fare un latte buono, perché il nostro latte è veramente buono, il latte italiano è veramente un latte buono, e soprattutto farlo in maniera sostenibile. Le vacche in alpeggio che sicuramente stanno meglio, perché insomma stanno sotto il sole, si godono il vento delle Alpi, vanno su e giù, insomma fanno ginnastica, stanno sicuramente meglio, però non sempre possono offrire la giusta quantità di latte, ne faranno 15-20 litri contro una fisona di allenamento e ne fa 90-100. Dobbiamo scegliere appunto se avere il latte a disposizione ogni giorno oppure avere una minore quantità di latte. Ecco, il latte e naturalmente la carne. Recentemente si è parlato molto dell'uso diffuso di antibiotici per di fatto accrescere la produzione appunto negli allevamenti. Questa non è una degenerazione, voglio dire, non si rischia di andare... Non per accrescere la produzione, ma per curare preventivamente. Preventivamente, dunque, assicurare. Sì, da batteri. No, io per esempio sugli antibiotici non sono affatto d'accordo, insomma, non penso che abbia un costo molto alto l'eccessivo uso di antibiotici in agricoltura. No, questa sì. Quindi non significa prendere il pacchetto completo delle innovazioni tecnologiche, lei dice. Ma sì, ma si ragiona sempre caso per caso, non c'è nulla di male in tutto questo. Insomma, un atteggiamento laico è un atteggiamento in alcune questioni sensato, perché ci consente di esaminare una questione a fondo e decidere se gli eventuali benefici vanno pari passi con bassi costi. se andiamo a operarci non chiediamo più di farci operare da un chirurgo degli anni 50, ma no, chiediamo una buona sala e con dei macchinari aggiornati. Siamo Pascale, siamo sempre di corsa, le chiedo una battuta su una citazione che trovo nel suo libro: l'ignoranza della chimica costituisce una seria barriera per lo sviluppo democratico. Sì, questo Hoffman, il premio Nobel per la chimica, si sostiene appunto che se noi alziamo, noi cittadini diciamo, alziamo il nostro tasso di curiosità e di competenza, poi anche i chimici dovranno farlo, quindi insomma si comporteranno meglio di conseguenza, ma ricorrere a immagini sterili di comodo non fa bene allo sviluppo della società. Insomma, noi dobbiamo chiedere delle cose migliori, dobbiamo anche noi essere migliori, si è migliori quando si conosce più a fondo un argomento. Insomma, siamo in chiusura e con Battiato che sentite in sottofondo. Pascale, lei che so che apprezza peraltro questo brano che viene citato in una riflessione sulla cura, le chiedo proprio una conclusione di questa nostra chiacchierata. Insomma, non sconfiggeremo probabilmente totalmente la fame nel mondo da cui prende spunto la nostra puntata, ma sicuramente possiamo fare molto per ridurre questo numero enorme, eccessivo. Sì, non la sconfiggeremo usando argomenti vintage, così, insomma, passatisti o desiderando ritornare in fantomatiche dimensioni del passato che secondo noi erano più giuste e più armoniche. Io penso che riusciamo a sconfiggere i problemi che abbiamo usando tutta la nostra conoscenza e la nostra serietà nell'affrontare degli argomenti, e quindi più complessi siamo meglio risolviamo i problemi. Quindi è un impegno di tutti questo qua, alla complessità. E poi è un gusto, cioè c'è passione, c'è piacere, non è soltanto una cosa faticosa, è anche una conquista dell'intelligenza. Grazie ad Antonio Pascale, lo ricordo, Scienza e Sentimento, una riflessione appunto sul mondo, direi, ma soprattutto contro le semplificazioni antiscientifiche. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo come sempre 30minuti@radio24.it per eventuali domande e messaggi, e ora vi lascio al weekend di Radio 24.